finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere distintivo. Eccoci qua, quindi. Le 23 in punto sulle frequenze di Onda Rossa, gli 87.9 della banda Roma e Laziale. Speriamo questa sera che la qualità dell'audio sia un po' migliorata rispetto alle scorse edizioni. Ci abbiamo lavorato un po' nel pomeriggio cercando di ripulire un pochino il suono. Dicevamo 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, questa è Radio Onda Rossa. Questo è 25 o'clock, come già annunciato dal buon Elettrodo che ci ha preceduto, e le sue prove tecniche di trasmissione. Gli auguriamo un buon rientro. Invece vi ricordiamo che questa radio vive grazie all'ausilio di tutti e tutte voi. Che ci permettete di continuare a trasmettere grazie ai vostri contributi. Contributi sia in forma materiale, proprio di corrispondenze, di aiuto a mandare avanti la radio, di dibattito, di idee, anche con i vostri suggerimenti e le vostre partecipazioni. Un contributo che è anche un contributo economico, di quando cioè mettete le mani al portafoglio e ci aiutate a far vivere la radio, a pagare le bollette, le incombenze economiche. Le tasse, i giornali per fare la rassegna stampa, insomma, tutte le spese piccole e grandi che la radio deve sostenere, non grandissime, perché come sapete anche dalla nostra campagna, una radio a bassissimo budget, con 30.000 euro l'anno riusciamo a far quadrare tutti i conti, anche perché nessuno dei collaboratori, dei compagni, degli attivisti, delle attiviste, delle compagne che producono, in realtà autoproducono, ci piace dire, Radio Onda Rossa, lo fa appunto a titolo gratuito, anzi molte volte ci mette del proprio per l'amore, la dedizione e la militanza che ci porta a far sì che Radio Onda Rossa possa continuare a vivere. www.ondarossa.info quindi è il sito, andate su Sostieni e lì troverete una paginetta di modalità per sottoscrivere per la radio. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale, da intestare a cooperativa culturale laboratorio 2001 00185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56, 064917 50, recapito telefonico della radio. Ma questa sera non vi risponderà nessuno, perché come sapete quando c'è il coprifuoco nessuno esce, Roma è deserta. non solo Roma. Onda rossa, ghiaccio l'onda rossa.info è la mail della casella di posta elettronica, qualora voleste comunicare con noi, ma non so se in diretta ce la faremo, almeno in questo spazio 25 o'clock, chiocciolondorsa.info, scritto a numero. Oh, puntata old style stasera, non ci saranno strane nostre autoproduzioni. Vi accompagneremo con la musica in stile 25 o'clock, cioè senza alcuno stile. Musica caciottara, così ammonticchiata una un po' sull'altra, perché dopo tanti anni ancora non abbiamo imparato a fare radio. Però che volete, anche da remoto 25 o'clock va in onda. This thrill is stone. My mind is not my own. This hold, this quick I'm Rock Radio. This thrill is stone. My mind is not my own. This hold, this quick release. Questa è Get a Grip, un funky. Has been. Come deve essere per la band proveniente da Manchester. Della formazione originale del 1978 troviamo Jets Kerr al basso e alla voce, Simon Topping alla voce, alla tromba, alle percussioni, Martin Moscrop sempre alla chitarra e alla tromba, e anche il vecchio Tony Quinguey al sassofono. Dopo 12 anni dall'ultimo loro lavoro, che si chiamava Mind Made Up, esce questo SR Loco. Un lavoro che stiamo così lentamente apprezzando, anche se non tutte le tracce ci sembrano proprio all'altezza. Molto bello questo funk, Get a Grip. Dall'inferno sul mio volto, e forse questa è la definizione più esatta che ci riguarda dopo questa lunga assenza. Arrivo dall'inferno per te. Ormai sono un po' di puntate, comunque, che siamo tornati in questa forma remotizzata, anche se non vediamo l'ora di rimettere le mani sulle postazioni della radio. Mani pulite, che non ha niente a che vedere con guardate che citazioni incrociate che vengono con le mani pulite, quelle giornalistiche del sono tornato dall'inferno, della corruzione delle amministrazioni locali, degli enti pubblici agli inizi degli anni 90. Arrivo dall'inferno per te. Mani pulite, perché ormai siamo diventati tutti igienisti, persino gli zozzoni come il sottoscritto, ma appunto per quello siamo lontani dalla radio e dal mondo. Vabbè dai, sono tornato dall'inferno da capo. Bomb Machine, Radio Onda Rossa. Sono tornato dall'inferno stanotte, scavando la terra bagnata di sangue. Cuore a cicatrici di fuoco, della collera e il ghigno sul mio volto. Sono tornato dall'inferno stanotte, le tenebre ho con me. Sono tornato dall'inferno stanotte, dall'inferno, arrivo dall'inferno, arrivo dall'inferno per te. Dei cadaveri e il fango, au, au, au, au. Il mio sangue amaro è veleno che uccide, un coltello affilato è il mio sogno. Dall'inferno, arrivo dall'inferno, arrivo dall'inferno per te. Accusiamo la mancanza di interattività, d'altronde è un po' il limite della remotizzazione, per cui in diretta su Radio Onda Rossa qui così immaginiamo che voi tutte e voi tutti che siete a casa avreste fatto un composto, quello 06491750 che illumina di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, quindi virtualizzato da capo Jimmy Scavafosse e Bomba Scena. some America, land that I love. E non sappiamo se this free ride America sia proprio riferito in qualche maniera a coloro che corrono liberi. Perché pare che sia l'unica attività all'aperto che venga tollerata in qualche maniera, specie dove le restrizioni sono più severe. Vabbè, ma avevamo promesso che non parlavamo di queste cose, perché 25 o'clock e Disconnection Notice, la sigla, sono appunto un avviso di disconnessione dal presente, America, che comunque continua a essere quello dei ritmi del consumo e della produzione che pare sia God bless America, l'unica cosa a cui questo sistema capitalistico non può e non vuole rinunciare. Sweet. E spetta a noi di rompere questa catena infinita. Allora, questi sono Violent Femmes, ovviamente il lavoro si chiama Other Last Resort ed è del 2019. Che abbiano preso una vena, insomma, che così dall'essere dissacranti, totali e sguaiati negli anni scorsi abbia un po' preso la strada della spiritualità, tanto da fargli fare produrre questa splendida cover. Invir Berlin era l'autore originale di God Bless America, la cantano come inno nei grandi eventi sportivi, propri degli USA. È una cover, però, al di là del testo, che è tutto Dio benedice America, dal mare ai confini più lontani, eccetera, eccetera. Però è una di quelle cover di un grande classico veramente che ve la faccio ascoltare, perché è meglio di questo invece di parlarci sopra. Da capo, quindi, God Bless America, Invir Berlin nella versione Brian Ricci, Victor De Lorenzo, Gordon Gano in arte. Violent Femmes, quindi, da capo, 25 o'clock, Radio Onda Rossa, dai. God bless America, God bless America, land that I love. God bless America, land that I love. Stand white with foam. God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet. Mountains to the prairies to the life that's full. I traveled it and every highway. And more, much more than this, I lived my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned its giant course, each careful step along the highway. And more than this, you knew when there was fight for girls to do. For it all, when there was doubt, I shut it up, I kicked it down, I faced the wall. Se Violent Femme, forse qualche dubbio ce l'abbiamo. Abbiano prodotto la versione di God Bless America con una qualche intento di sagrante. Sicuramente. My Way di Sid Vicious era dissagrante. Come ogni virgola della produzione dei Sex Pistols, chi non li interpreta così, chi non interpretò così, viaggiava e si muoveva su un piano diverso da quello del punk del 1977. God's The Queen, ovviamente, tanto per ribadire il concetto. Sex Pistols. Peraltro questa è una versione inclusa in un bootleg che si chiama Live in USA, acquistato in Malesia, insomma, un qualche valore. Se non altro documentale lo deve avere, quindi vi lascio a Ghost of the Queen, Sex Pistols. 25 o'clock, Radio Onda Rossa. passare all'ultima produzione targata 24 settembre 2020. Ultramono, ultima uscita per Idols. Neto Sheppas Moi con Johnny Bett. For the wolf. some bougie Uzi ears. Cost a vision and bear baiting on television for better ratings is. La nuova scena britannica Idols. Questa era Carthiozenic. Nuova scena attiva. Sensibile ai temi sociali e politici. John Talbot, la voce potente che ascoltate, Adam Devonshire, Mark Bowen. E poi più recentemente, poi John Bevis, più recentemente Rick Ehrman, terzo album prodotto per loro, un album all'anno, benché la loro attività risalga a un decennio fa. Abbiamo già avuto modo di ascoltare in lungo e largo Brutalism, ora è il momento di questo ultra mono, il più recente. E poi c'è anche del 2018 Joyce and Act of Resistance, e lo ascolteremo anche quello nelle prossime puntate a venire, speriamo. Dicevamo prima di poter mettere mano alle plastiche dei CD e ai 12 pollici, anche perché no. Mentre gli Idols in questi anni suonavano, usciva anche qualcosa che non è così dissimile nei suoni e nelle attitudini, e viene dal nostro meridione e dal sud proprio del Salento, dalla zona di Santa Maria di Leuca, del Tacco dello Stivale. Abbiamo avuto anche il piacere di ospitarli in radio proprio un paio d'anni fa, e questo è il loro Santi. Teneme qui a Fuggio, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Per facciare silenti e stanchi, ancora prima d'esser nati, ma adesso ho voglia di baciarti, sentirmi vivo sui tuoi fianchi. Santi, come pomodori sfratti, sponsati nel peccato e onesti come latitanti. Santi, divorati dalla rabbia, con la testa nella sabbia, angeli un poco indifferenti. E santi, e tu mi dici sono demonio, non ti amo e non ti odio, ti schiaffeggio per baciarti. E santi, e non posso salvare il mondo, e c'è sempre questa scusa per fregarci dai silenzi. E stanchi, ancora prima di essere nati, ma adesso ho voglia di toccarti, sentimi vivo sui tuoi fianchi. Non si è sentito nulla e abbiate pazienza, dicevamo, abbiamo ascoltato John Bett prima nella versione con gli Idol. Ne touche pas moi. E questa è John Bett invece con i Savages, in Ador, che mandiamo da capo, dai, ogni tanto ci stanno questi vuoti, non solo di voce ma anche di memoria. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. So sad, I'm sure my shame would be gone.

all'elettricità, all'esportazione del cacao. E questi disturbi, non questi che sentite sotto la mia voce, ma quelli nella precedente addition degli Ataxia, non sono casuali, in quanto il nome stesso della band, della band per un giorno potremmo definire, deriva proprio dalla compressione di Atari, la vecchia console di videogiochi, con Galaxian, che era un vecchio videogioco appunto per quel tipo di console, e Ataxia, come qualcuno persino su così le più i più noti portali pubblici ama mettere in evidenza, è anche la patologia che non fa controllare i movimenti. Dicevamo, un disco registrato in pochissimo tempo, e che noi trovammo nel periodo in cui i CD cominciavano a non avere più mercato, trovammo in uno di quei tanti posti che svendevano, tanti posti inaspettati, supermercati, banchetti vari, che vendevano appunto CD. Ataxia, band per un giorno, ce lo raccontava, dicevamo, in una vecchia intervista che troverete anche sul sito della radio www.ondarossa.info, troverete, andate a digitare magari 25 o'clock Giollelli, troverete appunto il racconto di Giollelli di come fu generato e realizzato questo disco, con un Geoff Frusciante ipercinetico che impose loro, insomma, si è partiti, si è suonati, si è registrato via due dischi, uno del 2004, uno del 2007, Automatic Writing, e quello che rimaneva delle tracce, Automatic Writing 2. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, insomma, se vi va andatevi a ascoltare questi piccoli documenti che giacciono nel nostro archivio della radio. Nel frattempo ascoltate Sotto di Noi, Animal Collective, Inspector Gadget. Quando sono passati 14 minuti dopo la mezzanotte. Sense saviesa, pel vell camí fressat tan sols un cop. I que la veu de sobte cridarà el secret nom que porta en tu la mort. No tornaràs, recorda, no t'apartis mentre fas via del que tan senzill és d'estimar. Aquest blat i la casa, blanc senyal de barca dins del mar, el lent or de l'hivern ajaçat a les vinyes, l'ombra d'un arbre damunt l'ample camp. Oh, sobretot, estima la sagrada vida de l'arbre i la remor del vent a les branques que s'alcen vers la lluna. Last time you were inside of me, the time you felt for my disease, came away without the car keys, two big humps and none too pleased. Everyone's defined by you, anyone can find the truth in me. Give up these car keys. I can't drive, no, I can't see. No thin glass window in front of me. Cut me, honey, but I don't bleed. One more no in my collection. Point that thing in your direction. Cans rolling at my feet. No passengers inside the station. It's time to play the midnight creep. Everyone's inside of you. Anyone decides the truth except me. Questa Produzione questa del 2020. Un bel camí fraçat tan sols un cop. I que la veu de sol. Lee Ranaldo insieme al produttore e polistrumentista. No tornaràs. Al polistrumentista iberico Raul Refri. Questa è la AMPS Espiro Mix. Anche questo è un lavoro recentissimo che avremo modo di approfondire. Estima la sagrada vita dell'arco. Si tratta in realtà di una contrapposizione di suoni per una sperimentazione non di quelle inascoltabili, di inascoltabili in senso buono, ovviamente piacciono tutte, anzi vorremmo, avremmo occasione magari nelle prossime puntate di ascoltare qualcosa di Rinaldo. The last time you were inside of me, the time... o meno sperimentale, comunque una china presa da un po' di dischi, quella dell'acustica e di queste atmosfere rarefatte. Ne parleremo quindi ancora. Nel frattempo noi ce ne andiamo invece dall'altra parte del globo, nell'emisfero boreale, nella Australia, tanto lontana. Temi Impala. Posthumous Forgiveness, quindi ultima produzione anche questa recente per Temi Impala. Down my street, ormai in versione solista, rolling at my feet. Scomparse praticamente del tutto, non ne abbiamo sentite, magari a un ascolto più più attento potremmo capire se è proprio vero, ma sono solo synth, effetti, loop e manipolazioni. Quindi posthumous forgiveness, Temi Impala. Stay close.

biggest train I ever saw was 19 coaches long, and the only girl that ever I loved is on. Questa è una di quelle song che quando le andate, quando andate a leggere il testo della song e cercate l'autore, ci sta un bella parentesi, una bella parentesi quadra, apro e chiudi, è scritto trad in mezzo. Si tratta di una ballata che risale presumibilmente agli anni intorno al 1870. Ovviamente ne ricorderete la versione recente e moderna. Rifatta e cantata da Kurt Cobain e i Nirvana. Magari un giorno metteremo anche a confronto le due versioni. Questa versione è più moderna ancora, nei termini di uscita è del 2016, l'hanno suonata in quel viaggio che non ci scorderemo mai di ricordare, in cui Billy Bragg e John Henry se ne vanno in giro con la chitarra, con due chitarre e una minima amplificazione, poi nei grandi atri delle grandi stazioni americane, o come scritto appunto nel sottotitolo dell'album, Channel Light Wild Recording from a Great American Railroad, quindi sulle grandi strade ferrate degli Stati Uniti. E noi da quelle strade ferrate passiamo a altre strade ferrate, presumibilmente, però molto più vicino a noi, qua a Roma. Quelle strade ferrate che spesso, essenzialmente per disorganizzazione voluta o casuale, disorganizzazione organizzata, qualcuno direbbe, fanno sì che i nostri viaggi, specie in tempo di Covid, siano veramente dei calvari. Questo è Rock and Ritz, un lavoro proprio dell'inizio del 2020. Cambia il corso del fiume, Rock and Ritz, con piacere a 25 o'clock a Radio Onda Rossa. Certi animali, cancellare le tue impronte per la strada, metterti le ali. Ma sei uno stupido idiota, uno stupido perdente, e lo sai. Cambia il corso del fiume, ma tu non cambi mai. All'incrocio non c'era nessuno, tutti i diavoli li hai già incontrati, non puoi più ingannarti, disperati se vuoi o riparti. Ogni occasione è persa sul fondo, oramai. Cambia il corso del fiume, ma tu non cambi mai.

ferrovia, laddove vivono i tuoi. Binario 2, con il mascara che cola, tu non hai chiesto mai niente di così grande, che non entrasse in uno zaino di scuola, ma il quartiere è stretto ed il mondo è grande, io non ho mai creduto per un istante che quel tempo all'idroscalo a contare le stelle sarebbe stato per sempre. Sarebbe stato per sempre, per sempre, per sempre. Il buio oltre la ferrovia ed i casini coi tuoi. Io so che non tornerai mai qui, che non tornerai mai qui, che non tornerai mai qui. No, non tornerai mai qui, tu non ritornerai. E meno male che anche noi abbiamo i nostri strimpellatori, i nostri strammer, e quindi ne approfittiamo anche per salutare Rock and Ritz, Patti, il buon Simone e Gigi di Teneme qui a Fuggio. Così qualche citazione ci piace farla della storia e delle vicende, dei percorsi che sai come abbiamo fatto in 25 o'clock. Vive qua, beve troppo e non sta zitta, ma patta il buio oltre la ferrovia, e ci avviamo a concludere, dai, ci avviamo a concludere, e lo facciamo però con una traccia piuttosto interessante di un lavoro dello scorso anno, Six Organ of Amitans. Questo è Black Tea, una psichedelia acustica che ci piace sempre ascoltare da queste parti. Radio Onda Rossa, 25 o'clock, dai, eh. era Modo, calibro 35. Un disco di plastica proprio. Perché deve suonare per forza di cose su una roba che gira con una testina. Anzi, credo che forse, finita la trasmissione, proprio quello faremo. Metteremo della plastica. Però fuori onda, ci dispiace per voi. Casomai non li mettiamo da capo. Sempre calibro 35, quindi. Dopo Mod uscito per decade, che credo, non ci siamo consultati in questo, dovrebbe raccontare che si tratta di 10 anni di calibro 35, oppure anche decade. C'è un ultimo disco di calibro 35 targato 2020 di cui non abbiamo però tracce in tutti i sensi. Si chiama Momentum, anche quello andrebbe ascoltato da queste parti. Allora, prima di ricordarvi che il palinsesto di Radio Onda Rossa in diretta finisce qui con noi, quando ormai è l'una, penso, qualcosa del genere, l'una e 04 per l'esattezza, ringraziamo tutte e tutti coloro che sono andati al Forte, dico andati perché purtroppo non abbiamo potuto partecipare alla presentazione di Scarceranda e del calendario di Zero Calcare. E al ricordo di Salvatore, del salvo nostro, di cui appunto non riusciamo a separarci, tanto più che non riusciamo e non possiamo e non dobbiamo, tanto più la radio trasmette, continua a trasmettere la voce di Salvatore, ma non solo la voce, anche i suoi sempre interessanti e ficcanti e semplici, se volete, a loro modo, ragionamenti semplici, perché quando siamo ben chiari i concetti e le idee sono piani, come quelle che aveva Salvatore, è facile esporle, cosa però molto più difficile per noi tutti e tutte, che tante idee chiare, le idee chiare non le abbiamo, ma è la vita che ti dà le vicissitudini, le lotte, l'attivismo che ti dà questa capacità di essere tanto lucidi, e Salvo aveva molto di questo vissuto. Dicevamo, ringraziamo tutti e tutte, sappiamo che la serata, ormai non si può dire la giornata, è andata piuttosto bene. Palinsesto della radio si continua con la compagnia automatica suonata. Si prosegue in diretta domani mattina con le prime pagine, la segna stampa cittadini, redazionali, e poi le 14, tutta scena cinema, Attica Blues, tra Black Music, La Schiena del Sol, alle 17, alle 18 al Mezzetes, Tabula Rasa, la trasmissione sui libri, e poi chiudono i Cuginetti d'Apostasia. Bella Fongis, bella Paizo. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i decreti amministrativi che ci costringono a appunto condizioni di limitata libertà. e a tutti i migranti, a tutte le persone che non hanno le carte in regola e per questo vengono rinchiusi e rinchiuse. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Hey brother, won't you please open up your heart for me now? And sister, the best dreams you dream sound for free. No more dead time with you on my mind, with you by my side. Communist moon.